Luca. Benvenuti ragazzi, addirittura siamo all'ottava puntata della trasmissione del podcast che parla di sessualità, pornografia, oscenità, politica, società e soprattutto parla di cazzo, ragazzi, perché secondo me è un argomento sempre trattato troppo poco. Il cazzo ha bisogno di molto più spazio di così e bisognerà darglielo. E quindi parleremo oggi di falsi miti proposti dalla pornografia, falsi miti proposti dalla società sulla pornografia, falsi miti proposti e perpetuati dalla società sulla sessualità e nonché su il posto che noi esseri umani dovremmo poter avere nella nostra vita, perché il posto che diamo alla nostra sessualità è direttamente correlato al posto che abbiamo nel mondo nella nostra vita. Allora, questa puntata è costruita su gli appunti presi durante la conversazione avuta per arraparsi per non impazzire, diretta Instagram che teniamo con Claudia Sca del blog Agitporn ogni domenica sera alle 22. Arraparsi per non impazzire, ragazzi, ce la siamo inventate durante la quarantena e abbiamo subito scoperto che oltre a parlare delle dimensioni del cazzo in realtà ci tiravamo un sacco di pippozzi e pippozze su questioni che dal sesso e il porno in realtà tangono tutta la realtà dell'essere umano. E quindi tra un pippone e l'altro abbiamo tirato fuori una serie di idee, appunti sui falsi miti della pornografia. A riguardo di questo inizio però la nostra chiacchierata intervistando Ellino, la mia inquilina, che nelle ultime puntate è stata un po' assente perché sta preparando la maturità, andremo a disturbarla e dopo io partirò col mio monologo. Spero di non annoiarvi troppo, ragazzi. Ho il monotono, non ho il monociglio ma ho solo il monotono, quindi fate finta che io abbia anche il monociglio, così il mio monotono sembra come dire una caratteristica di intellettualità e non semplicemente che sono una rompipalle noiosa, va bene. E quindi a chiusura ascolterete anche una bella canza, che è la canza di Lady Attila. Grazie Lady Attila per la canza, evviva! Per la sigla iniziale ringraziamo Cadavra. Allora, parleremo quindi di classici, dimensioni del pene, posizioni, squirting, eiaculazione, oppure per esempio essere presi come personaggi all'interno della dinamica sessuale, quindi far parte di un teatrino pre-immaginato, oppure tutte le altri luoghi comuni, altri falsi miti, diciamo, correlati a appunto alla cultura del porno, possono essere appunto il fatto che non serva parlare durante la relazione sessuale, che non servono consensi e conferme lungo tutta la sessione perché si va dritti e spediti, non serve usare preservativi, non serve preoccuparsi di concepimenti, malattie venere, non serve neanche lavarsi le mani, ragazzi, non serve neanche lubrificare. Non serve essere sicuri che l'altro non abbia cambiato idea e insomma questi sono tutti falsi miti, nel senso equivoci, io direi, cioè mancanze all'interno di quello che può essere l'insegnamento preso dalla cultura del porno. falsi miti ancora abbiamo, l'avremo sempre duro, ce l'avrai sempre duro, se non ce l'hai più duro il sesso è finito, se lei non dice di no allora è un sì, oppure per esempio basta mostrare che ce l'hai duro e lei subito diventerà la tua pornostar. Ecco, tutte queste cose qua uno poi se le aspetta, poi non succedono, rimane deluso e si ritrova sempre più miserabile di prima. Ma noi vedremo questi inganni purtroppo in maniera molto veloce, perché l'ora vola, ma sotto un punto di vista diverso. Quindi anche se non approfondiremo, io cercherò di proporvi in un punto di vista diverso, cioè nonché il mio. E buon ascolto. What is love? Ciao, ciao, sono il salotto della Tinka, sono la Tinka che mi porto dietro il salotto, ciao Ellie. Ciao, io ho l'esame tra 3 giorni però. Ah, ti sto disturbando, volevo solo farti una domanda, giuro i nostri ascoltatori non interferiranno ulteriormente con la tua psiche oltre questo istante. Okay. Ma secondo te cosa sono le cose che quando un giovane ragazzo vede la pornografia guarda che interpreta male, cioè non so, inganni che il mondo dell'immaginario pornografico portano poi nel momento in cui la persona si è ispirata a quello che ha visto e in qualche modo lo riporta alla realtà? Di sicuro il fatto che il sesso sia una questione di performance e sia quindi una cosa quasi atletica, dove per poter far star bene il partner devi fare delle cose incredibili, quello probabilmente. E poi anche una grande fissazione solo sulla parte genitale del sesso, secondo me, perché non ho mai visto... Cioè, in realtà io non è che guardo moltissimo pornografia, in realtà piuttosto ne guardo disegnata, quindi... E secondo me, però, di quello che ho visto, sì, questa attrazione molto genitale dove ci sono i corpi che non interagiscono molto oltre quello, anche la comunicazione non c'è molto... Non si creano sfere di intimità tra le persone coinvolte e... E questo di sicuro è straniante, cioè nel senso, perché se poi non vedi una cosa, cioè se tu non vedi delle sfere di intimità tra le persone, poi è anche più difficile che tu riesca a replicarle, insomma. E poi c'è anche molta poca attenzione data all'uomo, secondo me, nella pornografia mainstream, perché non mentre la donna fa milioni di pose varie per essere desiderabile, si piega a favore di camera così che si vedano tutti i suoi buchi, l'uomo invece no, è molto statico e serve fondamentalmente a fare da sgabello col cazzo. Che è una cosa tristissima e secondo me un sacco di ragazzi non sanno cosa fare, non sanno come muoversi, non sanno come essere desiderabili, anche perché non vengono considerati tali dalla pornografia mainstream. E anche il fatto che la donna non è mai tanto predatrice nei confronti dell'uomo, nel senso che non lo tocca, non gli tocca il culo, non lo tratta come se fosse oggetto di desiderio, spesso ho visto, che è una cosa tristissima secondo me, cioè è come in molti altri aspetti della vita che l'uomo rimane invisibile, insomma. Non è desiderabile, non è bello, non è acconciato, non è truccato, non è come non, così, ha solamente come scopo il, come si dice, tirare la carretta. Sì, che è una cosa un po' triste, insomma. Così. L'uomo che tira la carretta. Una domanda solo ancora, volevo chiederti, secondo te che differenza c'è tra la pornografia con gli attori reali e quella disegnata? Oddio, c'è un sacco di differenza in realtà. Diciamo che con gli attori veri è un dialogo tra persone, mentre invece disegnata è il dialogo tra una persona e le sue perversioni, quindi tende ad essere veramente di un'esagerazione incredibile, nel senso i corpi diventano proprio fuori da ogni tipo di nostra comprensione, vengono distorti in maniera anche grottesca a volte, però eccitante. E poi non so, si può mettere in scena tutto perché non c'è bisogno di consenso, non stai ferendo nessuno, quindi il limite è puramente la tua immaginazione e il tuo talento, e a me questa cosa piace tantissimo. E poi ho notato che c'è un tipo di inclusione all'interno della pornografia disegnata che è molto più raro da trovare nel porno mainstream, perché la gente si fa fantasie letteralmente su qualsiasi cosa, è pieno zeppo di immagini di donne col cazzo, uomini con le tette giganti, cioè proprio non pensare più al corpo come una cosa definita ma come una cosa a cui aggiungere gadget per essere sessualmente stimolante, quindi è proprio bellissimo, cioè è reificante nel modo più interessante possibile secondo me, infatti lo preferisco, cioè le persone vere a volte mi annoiano un po' da vedere. Hai un titolo da consigliarci? Oddio, uno dei miei preferiti è questo hentai disegnato che è una versione di Nausicaa della Valle del Vento dello studio Ghibli, però fatto con lei che si scopa tutti gli insetti giganti ed è una cosa di una bellezza che davvero si chiama La principessa che amava gli insetti, e penso che sia uno dei fumetti più belli che io abbia mai letto in vita mia, tra l'altro disegnato meravigliosamente, purtroppo l'hanno interrotto però è bellissimo, c'è lei che si fa ingravidare dagli insetti, è bellissimo, veramente bellissimo, bellissimo. Ma dove la trovi? Purtroppo non c'è una pubblicazione perché è una cosa un po' underground, però lo trovi su internet, se cerchi in inglese La principessa che amava gli insetti o in giapponese trovi un po' di scan e te lo leggi così, è bellissimo, poi te lo passo. Insomma, chi ha letto la Valle del Vento, Nausicaa, secondo me può gradire, può apprezzare ancora di più. E che altro? Vediamo, basta. Vuoi dire un commento pre-esame? Così ce lo ricordiamo, così un pensierino ricordo. Stai facendo una maturità molto esotica. Sì. Com'è la tua maturità, diciamo, post-Covid, anzi da ancora fase 2, siamo in fase 2, vero? Non lo so, a me sembra che sia finita tutta questa storia. Però i tuoi esami saranno particolari, come sarà la tua maturità? Sarà un bordello, cioè nel senso quello che facciamo è un maxi orale che vale un sacco di punti, noi arriviamo con un massimo di 60 crediti e dobbiamo parlare di cittadinanza e costituzione, alternanza scuola-lavoro, fare collegamenti interdisciplinari con le buste dentro dove ci sono anche delle immagini, magari dobbiamo collegare tutto il programma e analisi del testo e un elaborato di pittoriche e scultura, io faccio l'artistico, quindi così. Quindi nell'arco di 50 minuti dobbiamo fondamentalmente spremerci come dei limoni, e se dovessi dare un commento per questa situazione è fanculo la ministra, perché veramente se le ha inventate tutte per metterci in difficoltà. Cioè un esame così, in delle condizioni del genere, dove non abbiamo avuto neanche la possibilità di essere a scuola, e quindi io faccio già fatica a seguire le lezioni in generale, online proprio non ce l'ho fatta. E non so, mi sembra un po' una crudeltà, sinceramente avrei preferito che ci avessero dato un elaborato da fare di scultura, una relazione, ci fossimo visti per parlare delle cose di cui ci siamo interessati magari durante la quarantena, e vaffanculo, ognuno a casa sua, cioè nel senso mi sembra veramente inutile quello che stiamo facendo, però vabbè, fanculo Lazzolin, se devo dire un commento su questo. Ma sono virtuali gli esami? No, cioè nel nostro caso no, non so altri perché dipende da se la scuola in questione può prendere delle misure di sicurezza, però noi saremo fisicamente lì e con le mascherine, non si può toccare niente, devi portarti la tua chiavetta, devi igienizzarti le mani ogni 2 minuti, devi fare una serie di cose scomode e pallose. Vedrai che sarà divertente, sono sicura che dopo ti sarà, la vedrai come un'avventura nella quale anche se rocambolescamente ti sei divertita. Di sicuro avrò la storia di esame più particolare, immagino. Grazie cara. Niente. A presto. Lo sarcazzo. La la la la la. La la la la la. I falsi miti del porno, come intesi come miti da sfatare, quindi l'accusa che noi muoviamo a questi miti è quella di aver falsificato la realtà. Questo succede chiaramente perché noi ci siamo posti davanti al prodotto cinematografico come una certificazione della realtà, come un prodotto scientifico, anzi ancora meglio, un prodotto didattico sul piano razionale. Io penso che però in realtà profondamente per molti è proprio una sostituzione della realtà, ed è qui che noi quindi ci confondiamo e ci aspettiamo da un film porno quello che dovremmo aspettarci dalla realtà, dalle relazioni, dalla libertà di esprimerci in tutto i canali a riguardo della sessualità. Quindi già non doverci relegare al ghetto pornografia potrebbe essere forse la risposta vera a quello che noi andiamo recriminando contro i falsi miti del porno. Brava! Allora, siamo anche molto abituati a percepire i media come propaganda, in quanto diciamo che c'è sempre presente anche questa realtà, no? Di propaganda, ci viene propagandato un messaggio, un'immagine, un'idea della realtà, quindi anche un canone di comportamento, e ce lo aspettiamo quindi anche dal porno, e ci aspettiamo che sia anche una cosa di cui discutere. Quindi voglio che il porno racconti un certo tipo di sessualità e magari non un'altra, perché secondo me è più educativo un certo tipo e non un altro. Quindi io sono all'interno di un ambito che produce per arrapare, e voglio anche produrre o condizionare la produzione per educare. La necessità di un'educazione sessuale reale, del reale nella misura in cui ci rendiamo conto che siamo all'interno di una miseria culturale, in ambito della sessualità, ma anche dei rapporti affettivi, dei rapporti di relazione in genere, ma anche dei rapporti di potere, e dei rapporti di potere in senso lato, in senso civico, sociale, economico, proprio di amministrazione della popolazione. C'è un nesso, la domanda che io mi faccio, che mi sono sempre fatta, è: qual è il nesso tra usi, costumi sessuali, educazione sessuale, coercizione sessuale e schema sociale e organizzazione sociale, il filtro con cui noi leggiamo le relazioni e ci rapportiamo a noi stessi e quindi all'altro da noi, che possa essere il melo da cui raccogliere le mele, che possa essere l'amante, che possa essere il figlio, che possa essere l'idea di Dio, l'idea di Stato, l'idea di organizzazione sociale. Quindi sì, penso che dovrebbe essere oltre ogni dubbio l'urgenza e la necessità di fare una cultura sessuale o della sessualità, perché essa vi è un'assenza, cioè non è che noi possiamo non farla, la cultura c'è ed è un buco, una magma, una serie di cose, di schiaffetti sulle mani, dei traumatiche pensieri, ricordi, paure del buio. Quindi la cultura in realtà non è che la puoi, è una cultura negativa quella con cui stiamo cercando di convivere, e cerchiamo di compensarla giustamente nutrendoci di quello che c'è, e per esempio c'è il porno, ecco, il porno recintato, il porno bollato e bollinato. Cos'è porno, cosa non è porno, andiamo a vedere cosa dice il porno, mi faccio una sega guardando il porno, eccoci davanti al porno, che cazzo è sto cazzo di porno. Il primo ricordo pornografico che io ho proviene dalla mia immaginazione, E un ricordo veramente molto remoto. Sono nel letto con una mia amichetta un po' più grande, di un anno forse, due, non di più, e chiamiamola A, e forse ci stavamo strusciando un po', insomma ero arrapata di sicuro, e ho questa immagine di tanti corpi uno sull'altro incastrati, costretti, soffocati, sfregati, quasi bruciati, accesi dalla coercizione, dalla pressa proprio. E mi ricordo che mi eccitò tanto, tanto, o rappresentava la mia forte eccitazione, in qualche maniera mi rimase impressa. E mi è tornata poi in mente negli anni molte volte, prima poi di diventare un ricordo stabile, prima tornava a flash, perché facevo fatica chiaramente a contestualizzare un'immagine così, e in una cultura che non mi dava accesso a molto della nudità. Fortunatamente io non avevo proprio una preclusione del nudo, conoscevo quello che era il movimento hippie, quello che potevano essere altri movimenti religiosi che utilizzavano comunque questo contatto col corpo, la liberazione del corpo come un momento di liberazione dalle proprie catene, o comunque una chiave per scardinare, iniziare a scardinare, quindi scardinare dall'esperienza erotica, scardinare la gabbia che è nel corpo, che in realtà è un catenaccio per tutto quello che è sia l'immaginazione che il sentimento. Comunque, questo perché? Perché porno, l'immagine pornografica è molto di più che arrapare. L'immagine pornografica, secondo me, quello che a me veramente arrapa è proprio quando scardina, quando sta rompendo qualcosa dentro di me e mi sta dando la possibilità di essere anche altro. Ecco, per me questo è l'insegnamento, ma non l'insegnamento, è l'alchimia che io cerco. Detto questo pensierino su cos'è il porno per me, andiamo invece ai falsi miti. Perché cosa succede? Succede che i giovani e meno giovani, ma il problema è soprattutto per i giovani inesperti, vanno a farsi una cultura, un'esperienza conoscitiva della sessualità guardando prodotti pornografici, di solito anche, diciamo, non sempre con la pazienza di ricercare per forza prodotti alternativi o con una consapevolezza, un'intenzione etica, quindi anche con l'idea di avere una responsabilità educativa. Io non credo che sia necessario e obbligatorio, ma di sicuro non tutta la pornografia ha una consapevolezza, un'intenzione educativa, e quindi non si pone in quei termini, non porta un prodotto educativo. E io credo che le persone debbano imparare da ciò che desiderano, non da ciò che è bene per loro secondo una visione dall'alto di un altro. Io ho imparato le cose più importanti per me, le ho imparate sbucciandomi le ginocchia e non con un compitino da imparare a memoria, e le ho imparate inseguendo quello che mi arrapava. Quindi l'arrapamento, secondo me, è il vero maestro. Avere paura del proprio arrapamento chiaramente ti porta, secondo me, a essere meno cosciente e consapevole del tuo potere e a godere non nel rischio di farsi male, ma a godere nel rischio di farsi bene. Una delle cose che spesso si rinfaccia al porno è di non essere quindi attento a cosa insegna. Il porno deve far arrapare prima di tutto. Insegniamo alle persone a avere fiducia nel proprio arrapamento e facciamo un porno fatto bene dove nessuno si è fatto male per farlo, per esempio, ed è questo l'impegno etico, questo è il primo più importante impegno etico. i luoghi comuni proposti dalla pornografia che spesso le persone confondono con realtà e facendosi male in qualche modo. I falsi miti del porno sono di tanti tipi, ci sono quelli che commentano quello che può essere la fisionomia umana, una mitologia su ciò che è bello, ciò che fa godere di più, la donna che prese più cazzi di cavallo della storia della zoofilia, come un mito, cioè raccontato, cicciolina scopa i cavalli, ma perché si scopano i cavalli? Domanda. Wow. Il cazzo grosso invece è un classico intramontabile, anche perché ci sono dei motivi tecnici. Noi vedremo che in realtà la maggioranza dei falsi miti del porno sono legati a necessità magari anche tecniche o gusti predominanti. Allora, il porno ha una sua storia, ha i suoi canoni, i suoi feticismi, la sua nomenclatura molto legata ai motori di ricerca e alla sua realtà che lo rende accessibile, quindi a internet. Si fa portatore di stereotipi classici, di ricerca, sperimentazione. Anche nel porno passano, anche il porno viene attraversato da mode, da ondate, da tendenze. Vediamo nella pornografia, soprattutto se mainstream, è una serie di rapporti sessuali finalizzati a mostrare la sessualità. Quindi cosa vediamo? Vediamo persone che in realtà non si stanno realmente incontrando, quasi mai si stanno realmente incontrando per il loro piacere e basta. Noi vedremo del sesso che non è finto, il sesso è vero, ma quello che sta avvenendo all'interno della sessione sessuale è diverso da quello che andremo cercando all'interno di un incontro sessuale non finalizzato a una narrativa cinematografica. Quello che noi vediamo all'interno del prodotto pornografico è una sessione sessuale che non è finta, è vera, cioè il rapporto sessuale è vero, i corpi sono veri, l'erezione è vera, l'ano si dilata davvero, non sempre lo squirt è vero, non sempre la sborra è vera, ma di sicuro cerca di raccontarla cercando di enfatizzarne la crudezza della verità. Cioè, di solito gli artifici falsi servono soprattutto a enfatizzare qualcosa per renderlo più vero, perché di solito si dice, chi fa cinema lo dice, più la scena è falsa, cioè artefatto, più l'effetto è realistico, e qua siamo sempre nel magico mondo del cinema. Quindi dire che la sessualità nel porno è falsa è in realtà una frase non reale, cioè non è veritiera. Quello che noi però vediamo e che riscontriamo quando diciamo ma questo è falso quello che ho visto, è la messa in scena di una sessualità le cui motivazioni sono falsate. Io vedo due persone che scopano, che stanno scopando non cercando il piacere del sesso, ma l'immagine, stanno cercando di mostrare l'immagine più forte. Se noi siamo consapevoli di questo, non vi sarà alcuna falsità davanti a noi. Se io sto invece percependo questo incontro, decodificandolo come analogo a un incontro reale, senza telecamera, senza finalità rappresentativa, chiaramente sono davanti a una falsificazione. produzioni di porno che cercano proprio di offrire al pubblico un'esperienza autentica, cioè dove viene raccontato anche l'emozione, dove viene raccontata l'emozione, viene raccontato il vissuto, vengono raccontate le esitazioni, i momenti di passaggio, i momenti più umani, cioè quello che c'è di più simile al vero inteso al non per la fiction narrativa. E questo tipo di pornografia, diciamo, un po' più d'autore, un po' più etica, un po' più attenta anche al ruolo didattico, diciamo, del porno, racconta anche di più il vissuto e l'emozione per gli amanti del vissuto e dell'emozione dell'incontro reale. Altrimenti, diciamo, il mainstream ha proprio un altro tipo di politica nel momento in cui viene girato. Quindi, per fare un esempio, abbiamo da una parte una produzione di porno etico che ad esempio la nostra, Rosario Gagliardo, che accoglie il performer dicendo: qualunque cosa succede in scena va bene, se ti viene duro va bene, se non ti viene duro va bene, se ti viene da ridere va bene, se ti viene da piangere va bene, va sempre bene, perché quello che noi vogliamo raccontare è quello che realmente sta succedendo in questo momento in cui riprendiamo il nostro incontro sessuale, qualunque cosa ciò significhi. E poi c'è invece la produzione del porno mainstream, quella che ha fatturato molti soldi in passato e quindi si fa forte di un schema che vende e che funziona, che vede per esempio un personaggio molto noto nella nostra cinematografia porno, Rocco Siffredi, che all'interno del suo serial, dove racconta come addestra i performer, c'è proprio tra le prime puntate una scena in cui un aspirante performer dichiara di perdere l'erezione perché legge nell'espressione della sua partner della falsità. Lui dice, adesso non ricordo il termine esatto, però in qualche modo si sente che lei non è lì con lui, che non sta veramente godendo per lui, insomma ha delle esitazioni, delle insicurezze legate a quello che sta realmente avvenendo nell'incontro sessuale con questa partner, e il consiglio di Rocco e pensa ad altro, non importa che faccia fa la donna che ti stai scopando, tu pensa a quello che può farlo venire duro a te. Quindi praticamente lui è da solo, è in un momento di onanismo, cioè ha un'erezione per le sue idee, sta stantuffando un corpo, ma in realtà non è con esso, a stento e con se stesso. L'importante è mantenere l'erezione e portare a termine la scena, quindi la priorità è della sceneggiatura, non del vissuto, cioè la sceneggiatura non viene scritta in tempo reale dai performer che sono in quel momento anche amanti, no, è stata scritta a monte, pensata per un pubblico, quindi letto il pubblico, ricostruito attraverso statistiche di vendita, e quindi la finalità è creare questo prodotto. Si sta quindi molto sul livello performativo e cinematografico. Tutto ciò traspare, tutto ciò noi lo vediamo, anche se non tutti ci fanno un ragionamento vicino, ma a tutti arriva. Ci tengo a precisare che non vorrei mai che passasse dalle mie parole un biasimo. Allora, io credo che sia interessante una produzione e anche l'altra. È vero che il pubblico che impara, apprende da ciò che vede, da una parte apprende anche il non detto e dall'altra pure. Quindi questo è un fatto. Ti devi portare a casa la pagnotta, stai facendo la faccia da poker, speri che lo spettatore medio non se ne accorga. In realtà viene feticizzato questo tipo di rapporto da un certo tipo di pubblico, e questa cosa non va moralizzata, cioè noi non dovremmo trovarci a dire ah, ma voi vi arrapate con un sopruso perché queste persone si stanno piegando, stanno vendendo la loro sessualità, scopando, pensando ad altri. In questo modo tu dai per scontato che loro debbono per forza pensare l'uno al bene dell'altro nel momento in cui scopano, e questa è una pretesa moralistica, quindi io salterei questo passaggio, cioè lo risolviamo così, andiamo oltre, e abbiamo quindi due persone che in ogni caso stanno avendo un rapporto, diciamo, che non assomiglierà al rapporto dal quale noi invece vorremmo trarre piacere nel personale. Quindi, ribadendo che però il problema è la lacuna, non il prodotto, andiamo però comunque a fare un'analisi di questi falsi miti, cioè di questi inganni. Che appunto sono di varia natura, perché ci sono appunto questi inganni che sono legati alle pratiche sessuali o la conformazione fisica o il rapporto tra conformazioni fisiche, pratiche sessuali, tempi, dimensioni, e come se fossero anche proprio pratiche yoga, se io faccio così funziona così, ma eccetera eccetera. Ma ci sono anche falsi miti legati invece a quello che si sente e al modo di interagire tra i partner, che secondo me sono le cose più importanti, perché appunto fanno parte di quello che è l'alfabetizzazione relazionale, l'alfabetizzazione di quello che è il patrimonio, le conoscenze, gli strumenti che si possono usare all'interno di un incontro sessuale erotico. Allora, il primo, il classico, è quello delle dimensioni del pene. Ci spendiamo due parole perché mi sembra doveroso. Ragazzi, allora, il pene serve grande soprattutto per inquadrarlo bene, e per fare magari, sì, è vero, certe posizioni che serve proprio anche una curvatura, serve una centimetratura per raggiungere tutto quello che deve raggiungere. Non è direttamente collegato al piacere, ciò non toglie che ci può essere un piacere particolare, e c'è un piacere particolare nel farsi penetrare da peni particolarmente abbondanti in rapporto alle dimensioni della propria vulva, dimensioni correlata a quanto è rilassato il tuo apparato genitale, cioè la tua accoglienza è ampia, è navigata, sei rilassata, sei eccitata. Sono tutti fattori che possono aumentare la dilatazione. Hai partorito mai nella tua vita? Ecco, queste cose qua cambiano la dimensione dei tuoi genitali femminili, e mentre quelli maschili purtroppo magari rimangono uguali a se stessi, quindi capita nella coppia che la tua figa si allarga e il suo cazzo rimane quello, però voglio dire, signore, non allarmiamoci, chiunque ama fare sesso sa che non è una questione di dimensioni. La percezione del membro dentro, che è la cosa secondo me di cui noi stiamo parlando quando parliamo del cazzo grosso, noi parliamo in realtà di percezione del membro dentro, cioè questa cosa di sentirsi proprio piene. Chiaro, se tu hai sgravato tanto, sei molto arrapata, sei molto rilassata, magari pratichi fisting c'è da riempire, ma se si crea una situazione di forte eccitazione, almeno per me funziona così, io la percezione dell'altro ce l'ho per la sua alterità. Non è una questione di diametro o di lunghezza, la sua alterità data dal tipo di rapporto che ho con lui, dal tipo di pensieri che sto avendo in quel momento in relazione al mio vissuto nel presente, cioè in relazione a lui, in relazione a quello che sta avvenendo. Questo, ecco, quindi io direi che forse più che è una questione di centimetri di diametro, è proprio una questione di significato e alchimia. Sulle dimensioni del pene si potrebbe dire molto altro, vi lascio con uno spunto, ecco, mettiamola così. Diciamo che ogni dimensione ha la sua, il suo impiego migliore. Personalmente opto per i piselli piccoli nel culo e quelli più grossi nella fica. Questo perché la mia fica è molto più dilatata del mio culo e nel culo mi piace poter fare sesso violento senza dovermene pentire poi per settimane, giorni, insomma, sesso violento sì, farsi male no. Quindi il cazzo non enorme per me, che non sono molto dilatata. In generale cazzo medio in bocca è anche più facile e maneggevole, dà più soddisfazioni del cazzo enorme, quindi in realtà se vediamo il cazzo medio forse è quello più versatile. Se proprio dobbiamo sceglierne uno, escludere tutti gli altri, andiamo sul medio che è versatile. Ribadisco che la persona ha più la persona intesa tutto tondo è l'ingrediente, non la centimetratura del cazzo. Quando parliamo di alchimia, quello che conta è l'alchimia e saperci fare, non i centimetri. Parliamo di mille cose che possono essere l'odore, la capacità dell'altro di sentirci, la capacità di farsi sentire, in che modo riusciamo a sentire e a farci sentire, perché poi alla fine l'incontro, quello che conta è sentirsi così tanto, sentire l'altro e sentire noi stessi attraverso le sensazioni dell'altro fino al punto di sentirsi energia vibrante, quindi prescindere anche da se stessi. Quindi arrotondiamo il concetto delle dimensioni a ogni cazzo ha il suo giusto luogo dove infilarsi e la sua pratica elitaria. Ricordatevi ragazzi di variegare la dieta, è meglio provare più cazzi che odiare uno solo che non ti basta, quindi più cazzi è meglio. Questa è la vera grandezza del cazzo. Però, chiaro, ripeto, se sto guardando un film, io sto guardando degli sconosciuti e sto raccontando una storia, probabilmente anche molto elementare, tipo lui vede lei, scopano. E questo esempio ci porta a un altro luogo comune. Le persone si incontrano e scopano. Ecco, questa cosa qua, per quanto possa essere eccitante, divertente, liberatoria, allora da una parte ha la parte, l'esperienza liberatoria, cioè dove le due persone a un certo punto non c'è altro, c'è solo scopare, è liberatorio perché è esattamente quel, è il corrispettivo perfetto di quello che in realtà poi succede da noi di solito nel quotidiano, cioè tutto tranne che scopare. Non chiaro, cioè tutto lo scopare è una cosa che è ritagliata in un determinato rapporto, per un determinato rapporto, in un determinato tempo, in un determinato spazio. Anche la narrazione, infatti, esiste appunto il ghetto della pornografia. Quindi il fatto di vederli e se si scopre basta è liberatorio, però d'altro canto c'è un handicap, cioè salta, omette quello che in realtà più serve alla gente, cioè capire come si fa a passare dal non si scopa al si scopa. Quindi la persona X, diciamo, che apprende, mettiamola così, prende l'esempio dal porno, gli rimane il buco, cioè come passo da vorrei che me lo prendessi in bocca, me lo prendi in bocca, o vorrei toccarti il cazzo e allungo una mano sul tuo cazzo, come ci passo? Se è un porno, basta dire porno, ciak, si gira e si fa. E io quando ho iniziato a fare un po' di sperimentazione per creare situazioni da riprendere, da fotografare, mi sono accorta io per prima che alla fine usavo il set, cioè il set era un modo per superare l'impasse, Cioè, finalmente, che bello il set, ok, si gioca, facciamo che da qui in poi le regole sono diverse. Quindi quando voi dite, cavoli, si abbassano le mutande e scopano, mica è un porno, perché solo nel porno succede, esatto, è così, solo nel porno succede. Come facciamo a fare il salto dimensionale tra realtà e porno? Innanzitutto, scusate se la faccio sempre difficile, però in realtà è facile, innanzitutto iniziare a pensare a questo confine, cioè vediamolo questo confine. Quando siete in una situazione in cui vi piacerebbe fosse porno, anche se non lo è, almeno date sfogo all'immaginazione, pornizzate la realtà. Vediamo un altro luogo comune, un altro luogo comune possono essere, può essere quello delle posizioni. Non è che una gran scopata è necessariamente tutto l'elenco delle posizioni del Kama Sutra, possibilmente una durata da Guinness, che poi puoi andare in giro a vantarti con gli amici, io tre ore, magari, cioè non è sinonimo necessariamente di piacere quello che ci ha fatto rapar veder fare nel porno. Cerchiamolo insieme anche al partner reale, quello che può essere il piacere in quel momento. Io adesso faccio l'esempio estremo opposto, non perché voglio dire che la normalità è che possa piacere di più una scopata a luce spenta romantica, silenziosa, piuttosto che una stantuffata a fronte retro con tirate di capelli e scudisciate sul culo. Il vostro incontro sessuale può essere la scudisciata fronte retro e magari già con un amico e tutto quel che è, come può essere una cosa super soft. Non andate però col preconcetto del per goderla si fa così, per far godere l'altro si fa così, oppure per fare una scopata degna di questo nome si deve fare così. Non tutte le posizioni che sono belle da vedere sono altrettanto belle da fare, e soprattutto non tutte le posizioni danno le stesse sensazioni sempre. Io scelgo in che modo cercare piacere a secondo anche del mio umore, magari da che tipo di sensazioni sto cercando di provare. Magari, ecco, non è neanche una scelta che uno fa a tavolino, però ci sono delle posizioni che uno predilige e deve magari scoprirle strada facendo, ed è molto più carino poter sperimentare piuttosto che partire in quarta con le posizioni sempre quelle, soprattutto se il partner è occasionale. Bisognerebbe stare molto in ascolto. Vediamo appunto due attori che si sono relazionati in scena dopo aver parlato fuori scena, inoltre hanno magari un copione, oppure hanno un regista, o comunque hanno un elenco di pratiche da fare. Quindi noi non vediamo la parte della trattativa tra le persone, ma queste persone si sono parlate, cioè la biondona con le tettone e il Big Jim col cazzone duro come se non ci fosse un domani, hanno parlato. Probabilmente uno ha le bollette da pagare, l'altro c'ha i figli a casa, si saranno fatti delle battute, magari si sono già conosciuti su altri set, si domandano a vicenda, allora come va tuo marito? Bene, grazie. E poi alla fine ti sei trasferita in campagna? Sì, cioè hanno questo tipo di rapporto anche probabilmente, o un qualche altro tipo di rapporto che magari nel film appunto non si vede. Non si vede, oppure si vede falsato, cioè lei, non lo so, è la bambina, lui è il padre, chiaramente non lo sono perché sarebbe illegale, però noi siamo lì che ci facciamo la fantasia erotica incestuosa del padre e della figlia con il nostro archetipo paterno, il nostro eros dell'infanzia frustrato e occultato che vuole in qualche modo dire la sua. E chi se ne frega dell'attore e dell'attrice. Però se volessimo invece veramente percepire l'azione sessuale e non stare sul simbolico, potremmo anche pensare che in tutta questa pantomima c'è Tizia e Caio con un'identità, con una storia. Quindi noi siamo partiti dall'idea della posizione precostituita, preconfezionata, stereotipa, ma in realtà stiamo andando a parlare di quello che è l'idea dell'altro stereotipo, quindi l'idea dell'altro come soggetto che diventa oggetto, ma non solo, il problema è che diventa oggetto funzionale alla fantasia, all'immaginazione, quindi sono ancora da solo. Ecco, questo forse è quello che più magari chi sente di lamentarsi dei falsi miti della pornografia si lamenta dell'incontro col partner. Cioè, io ero il personaggio della sua fantasia, io ero come il personaggio del suo filmino porno. Nella, come mai questa persona ha portato, mi sono trovata in una scena, in una pantomima? Allora, in generale, quando vi succede di pensare questo, considerate che siete sempre in due. Comunque, quello che può succedere è che confondiamo l'istinto, anzi, cercando un istinto, come se facessimo un ballo, una seduzione come un ballo, un incantesimo, però nel cercare la parte istintuale o nel cercare l'idea che ci eravamo fatti o nel cercare di leggere anche quello che può essere gradito negli occhi dell'altro, però magari in quel momento per qualche motivo non siamo forse abbastanza educati nella decodifica dell'altro, entriamo però in una meccanicità del comportamento. Quando il comportamento diventa meccanico, quando mettiamo il pilota automatico, una delle cose che di solito avviene quando ci troviamo a innescare il pilota automatico e a meccanizzare le nostre azioni è il distanziamento dalla percezione della realtà. Io non sono più completamente qui a scrivere la storia, a decidere, a scoprire, a sorprendermi di me stessa nel momento in cui è successo qualcosa che mi ha fatto prendere le distanze. Mi ha fatto prendere le distanze dal vissuto, quindi io non sento, non sono veramente qui, ma devo continuare a agire, devo continuare a avere un ruolo, perché non me la sento di scoppiare a piangere di colpo e dire è successo qualcosa o non posso continuare, o dire non sta andando come volevo, e quindi proseguo in questa relazione senza ammettere che sta avvenendo qualcosa. Per mia esperienza devo dire che quello che spesso interviene è blocco delle sensazioni, cioè io a un certo punto non sento più molto, non sento più tanto, non sento me, non sento l'altro. Quando dico non sento intendo proprio non senso, non sento le sensazioni fisiche, non sento le emozioni, non sento né le mie né quelle dell'altro, probabilmente anche il desiderio è un po' più lontano da me in quel momento, è più pensato. Cosa rimane quindi? Rimane l'aspettativa di non fare brutta figura, o rimane la speranza di recuperare strada facendo la presenza nell'esperienza. A volte succede. In generale, diciamo, quella sensazione di percezione, quella percezione di meccanicità può corrispondere a una effettiva meccanicità del comportamento, causata da un'irruzione violenta della vergogna, del senso di colpa, della paura, della paura anche del non saper cosa fare, del non sentire, ma come io avevo pensato che avrei sentito questo e non lo sto sentendo. Succede a prescindere dal sesso, succede a prescindere dall'età, succede a prescindere da molte cose, quindi può capitarvi in qualunque momento a voi, può capitare in qualunque momento al vostro partner. alcune persone scopano quasi sempre così, cioè prendendo le distanze da loro stessi. Io credo che l'importante è rendersi conto che è un fenomeno correlato alla nostra dimensione politica, cioè nel senso, noi non abbiamo un posto, non abbiamo una possibilità di viverci la sessualità in maniera, no, diciamo, emancipata dal senso di colpa, dalla vergogna, da tutto quello che la nostra cultura porta sulla sessualità, soprattutto su quelle caratteristiche intrinseche nella sessualità non convenzionale, che può essere l'aggressività, che può essere la bruttezza, che può essere la volgarità, che può essere il potere, la misurazione del reciproca sul piano del potere. Insomma, ci sono veramente tante cose che emergono all'interno dell'esperienza sessuale e con le quali non abbiamo un buon rapporto, non abbiamo ancora, magari non ci sentiamo autorizzati a parlarne, a pensarci liberamente. Vi sono molte memorie, molti pensieri negativi a questo ambito legati, e quindi avviene la meccanicità nel comportamento, cioè quindi un comportamento che si poggia su si fa così, no? Non sono io, non mi prendo la responsabilità di niente, si fa così, si stantuffa 40 minuti, quando mi dice sono venuta mi fermo, speriamo che ce la siamo portata a casa e che non si sia accorta che mi puzza l'alito, ce l'ho corto e che in realtà la sto usando perché volevo solo sborrare, non la sposerò, mi odierà, oh mio Dio, stantuffo. La stessa cosa ve la potrei raccontare al contrario, oh mio Dio, non sento niente, figa, sto qua, si sta sbattendo come un disgraziato, chissà quanto è convinto, dopo gli dovrò dire assolutamente che è stato bravissimo, altrimenti si offende, madonna, quando è che finisce, dai, simuliamo un bello orgasmo così il suo narcisismo è soddisfatto, sente di aver portato a casa la scopata, non si sentirà una merda, e potremo risalutarci domani con serenità, magari al lavoro, bere un caffè e nessuno dovrà vergognarsi di aver tentato di lasciarsi andare senza riuscirci, perché è questo che succede, cerchiamo di lasciarci andare, non ci riusciamo, parte la pantomima. Quando il comportamento diventa meccanico, quando mettiamo il pilota automatico, una delle cose che di solito avviene quando ci troviamo a innescare il pilota automatico e a meccanizzare le nostre azioni è il distanziamento dalla percezione della realtà. Io non sono più completamente qui a scrivere la storia, a decidere, a scoprire, a sorprendermi di me stessa nel momento in cui è successo qualcosa che mi ha fatto prendere le distanze. Mi ha fatto prendere le distanze dal vissuto, quindi io non sento, non sono veramente qui, ma devo continuare a agire. Devo continuare a avere un ruolo, perché non me la sento di scoppiare a piangere di colpo e dire è successo qualcosa o non posso continuare, o dire non sta andando come volevo, e quindi proseguo in questa relazione senza ammettere che sta avvenendo qualcosa. Per mia esperienza devo dire che quello che spesso interviene è blocco delle sensazioni, cioè io a un certo punto non sento più molto, non sento più tanto, non sento me, non sento l'altro. Quando dico non sento intendo proprio non senso, non sento le sensazioni fisiche, non sento le emozioni, non sento né le mie né quelle dell'altro, probabilmente anche il desiderio è un po' più lontano da me in quel momento, è più

apprendere le condanne, i giudizi che facciamo al nostro partner e girarli, ribaltarli verso di noi per vedere il corrispettivo che ci riguarda. Questo non solo per una questione di giustizia sociale, ma anche perché è il vero unico punto di partenza, cioè l'unico vero punto di partenza per cambiare il modo in cui l'altro ci scopa e cambiare il modo in cui noi lo scopiamo o ci facciamo scopare, a seconda di come ce lo viviamo. Siamo molto abituati a bollare, fare processi al prossimo e molto poco a far partire il cambiamento da noi stessi. E con questa perla di saggezza vi saluto. Non sono riuscita a parlare di tutti i punti che avevo preparato, probabilmente ve li ripiazzo nella prossima puntata. Vi ringrazio tutti, vi ricordo che Maria Tinca è anche coautore della produzione pornografica etica, pornoestetica, sperimentale, autoriale, familiare, Rosario Gagliardo. Ci trovate su Pornhub, ci trovate anche su Telegram, anche se un po' pigri e scazzati, ci trovate la domenica sera su Instagram, ci trovate nel sito www.rosariogallardo.com e mi trovate anche in una dimensione di aiuto, una dimensione nella quale non sono più la vostra preferita star, ma mi farò da parte per fare spazio a voi e metterò a disposizione le mie conoscenze per aiutare voi a diventare la star della vostra vita. Quindi vi ricordo che propongo percorsi di counseling a 360 gradi e anche su tematiche relative alla sessualità. Vi ricordo, per chi non lo sapesse, che le mie tecniche sono sperimentali, ma anche una formazione ufficiale, diciamo, in bioenergetica, in esercizi di bioenergetica, ma il mio metodo è sempre un po' particolare perché io lavoro soprattutto a partire dalla sessualità. E grazie e buongiorno, anzi no, buonanotte, ciao. Bussi bussi per tutti i gusti, yeah, sono molti gusti, vado bene a tutti, pure a quelli brutti, pure a quelli brutti, sono una vera bussi, sono una vera bussi, tu sei un vero man, ma non il mio fran, ti manca il toy, ma non sono toy ben bullshit. Sono molti gusti quindi multifunzionale, il tuo cazzo invece è poco solidale. Per una cagna che si vuole soddisfare, questo no, no, no, non lo posso tollerare. Ma me fai grosso me, sì lo succhio, dovrei scopare a terra per te. Adesso senti, ma frate, lingua a terra, la tua pussy peste latex. Mo ti insegno le istruzioni, ti lubrifico emozioni, stringendoti le corde e coglioni, ad ottenerli grossi come due limoni. E se le cose che dici mi danno malumore, userò il mio culo per soffocarti le parole con latex. No, non c'è competizione, sono una cagna che ne sa di sottomissione. Bussi bussi per tutti i gusti, yeah, sono molti gusti, vado bene a tutti, pure a quelli brutti, pure a quelli brutti, sono una vera bussi, sono una vera.